all'imbrunir. Sere d'inverno. Viene il buio, la tempesta. Tra le onde delle acque eterne, balenieri naufraghi. L'urlo della pioggia ora vicino strappa le bandiere alla città. Un'onda sconosciuta s'adempie. Profezia ispirata. Primavera remota, provvisoria. Un giallo lungo il viale sventola. Caldo profumo. Ancora tempesta. Urla di festa dinanzi al porto. Isole frammentate. Mari mossi. Esuli dubbi, esule onde. Volgi la tempesta, esausto mattino. S'aggira un raggio di luce fra le inquiete nuvole. Rinnovamento.